1, 2, 3, 4. Veloce, i tempi cambiano ad alta voce e ti confondono mentre fai finta di niente, ti cambiano per sempre. I tempi cambiano nel tempo di una canzone, i tempi cambiano e il mondo è in agitazione e i venti portano un rullo di tamburi, fuori le spade e tanti auguri. Hai smarrito le istruzioni per le tue rivoluzioni, vengo a prenderti e tieniti stretta un po' più forte, e anche se cambia l'orizzonte non cambierà di un attimo il tempo insieme a te. Tienimi stretto un po' forte, finché riusciamo a andare oltre. Immagina possibile un'altra verità. I tempi cambiano, se mi bombardano mi troveranno al bar e non mi servirà pregare, non mi salverà un altare, semmai quel giorno arriverà. I tempi cambiano, lo vedi negli specchi, i tempi cambiano negli occhi dei ragazzi, cuori che strillano guardando in faccia il futuro. I tempi cambiano, è sicuro. Ho bruciato le istruzioni delle mie rivoluzioni, vengo a prenderti e tieniti stretta un po' più forte, e anche se cambia l'orizzonte non cambierà di un attimo il tempo insieme. C'è chi pensa solo a